Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 20 aprile, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Antonella Cortese, buongiorno, la mia collega. Buongiorno a tutti. E Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, diciamo anche in arabo, ahla wa sahlan wa marhaban. E io riapro sempre con le notizie, un po' vi faccio da redattore sociale, sempre con una storia, anche oggi. 28 anni di galera e un desiderio, chiedere perdono a mia madre, lo leggo dal Riformista, un articolo di Veronica Manca, perché questa è la storia di Antonio, un ergastolano ostativo che neppure il DAP ormai, dopo 28 anni di carcere, considera più pericoloso. E in carcere purtroppo a Reggio Emilia ha preso anche il Covid. Ricordo che l'ergastolo ostativo viene inflitto ai soggetti altamente pericolosi che hanno commesso determinati delitti, per esempio il sequestro di persona oppure associazione a stampo mafioso, ed è quello che viene definito il fine pena mai, una condanna molto dura, molto più che l'ergastolo, che sono quei 30 anni di prigione. L'ergastolo ostativo è quello che non ti permette neanche di avere dei permessi premio in qualche modo. E dice Antonio: vorrei avere la possibilità di salutare mia madre prima che muoia per chiederle perdono. E questa è la sua richiesta, non chiede altri benefici, chiede solo questa possibilità di riscatto e di recupero di un dialogo. Perché in carcere è tutto congelato, tutto immobile, però ciò che non arresta è la pandemia. Ricordiamo i dati terribili di Reggio Emilia che con una positività per 60 agenti e su un totale di 400 detenuti, 119 sono ammalati e 5 ricoverati in ospedali, tra cui anche Antonio, a cui facciamo gli auguri veramente di buona salute e buon recupero. E dicevo, Antonio non è più considerato pericoloso neanche dal DAP ed è per questo che ha ottenuto la declassificazione dall'alta sicurezza alla sezione dei detenuti comuni. E la sua storia è simile a quella di molti altri, un ergastolo ostativo raggiunto in giovane età, ma poi la piena consapevolezza dei propri errori, una carcerazione lunghissima e una rivisitazione del proprio passato, dagli studi universitari ai percorsi di giustizia riparativa. E tutto questo ci deve far riflettere anche per superare quegli slogan un po' lambrosiani, positivisti, che della mafiosità che parte dalla nascita e giunge fino alla morte. Perché non è vero, non è così, anche la Corte Costituzionale nel 2018 ha affermato che la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma continua a essere aperta a una prospettiva di un possibile cambiamento e noi sosteniamo tutto questo. Antonella, do la parola a te. Grazie, grazie Caterina, molto interessante e molto importante quello che hai detto. E io invece andrò in Liberia. In Liberia voglio parlare di donne e di una particolare rivoluzione che si chiama l'Upper Revolution. E in Liberia le donne hanno lanciato questa campagna che appunto si chiama l'Upper Revolution per portare gli uomini a correggere gli squilibri di genere nelle strutture di potere del paese. In verità, faccio una piccola parentesi, non è una novità neanche in Italia, perché è da poco tempo che uno dei maggiori partiti italiani, che è il PD, ha deciso di nominare due donne capigruppo dalla Camera al Senato, quindi insomma anche noi dobbiamo fare tanta strada. Ma tornando in Liberia, oltre il 50% della popolazione nazionale è femminile, tanto per cominciare, come nella maggior parte del continente africano. Ma le donne sono una minoranza politica e sono veramente poco presenti. C'è da dire però che hanno avuto un esempio illustre, perché la Liberia è stata la prima nazione africana ad avere una donna, Ellen Johnson Sirleaf, come presidente dal 2006 al 2018. Però le attiviste sostengono che c'è ancora molto da fare, bisogna spingere e fare di più. Mac Della Cooper, che è un attivista e filantropa che ha creato una sua fondazione per aiutare le donne e i bambini, ha detto in un'intervista alla BBC che in Liberia non ci sono i servizi di base di cui hanno bisogno, aggiungendo che l'Upper Revolution ha proprio come scopo principale quello di aumentare la presenza delle donne in Parlamento. E Mac Della Cooper dice anche che nel 2021 purtroppo c'è un tasso di mortalità ancora molto alto, mortalità materna, a causa soprattutto della mancanza di rappresentanza, per cui i problemi che riguardano le vite, che riguardano la vita delle donne, potrebbero essere facilmente risolti se ci fosse più sensibilità e più presenza di donne nel Parlamento. Tra l'altro, una piccola parentesi, la Cooper era stata anche candidata per le presidenziali del 2017, ma non fu eletta. E non potrei parlare di quest'area geografica senza accennare a una scrittrice nigeriana bravissima che io adoro veramente e che si chiama Chimamanda Ngozi Adichie, che ha vinto molti premi, tra i quali anche un prestigioso premio italiano nel 2009, che si chiama Premio Internazionale Nonino, per il libro che si intitola Metà di un sole giallo. Poi ha scritto tanti altri libri, tra i quali, lo cito perché mi piace il titolo, Dovremmo tutti essere femministi. E, rimanendo in Liberia, vorrei lanciare un brano che è cantato e scritto da Metz Mené, e che unisce la tradizione africana della musica Gmeba all'innovazione. Quindi è un brano molto vivace, molto allegro, che ho il piacere di lanciare oggi. Trovati su Liberi Dentro Eduradio a tutti i nostri ascoltatori e ospiti tra la città e il carcere. Siamo sempre con te, Ignazio De Francesco, che ci porti in viaggio, una rubrica di viaggio. Oggi siamo ad Ain Arik, un piccolo villaggio della Palestina, quindi passiamo dalla grande città, ieri Gerusalemme, fino ad Ain Arik, dove sono stata anch'io nel 2011, dove tu hai vissuto per 5 anni. Ci racconti qualche ricordo? Beh, è esattamente così, passare dalla grande città storica così a un piccolo villaggio che è anche storico, perché Ain Arik, che vuol dire fonte di Arik, Ain è la fonte dell'acqua, e siamo proprio nella Palestina biblica, con queste alture, le colline, gli oliveti, una vita molto semplice di fallahin, cioè di contadini essenzialmente, adesso poi lavorano anche nell'industria, a pochi chilometri da Ramallah, che è il grande centro anche politico dove c'è il Parlamento palestinese. E lì sono finito dopo l'anno a Gerusalemme ed è stato veramente un salto incredibile. Questo villaggetto sui due fianchi della montagna, di cui una parte è tutta fatta di cristiani, l'altra sono musulmani, ma che vivono in grande pace. Anzi, pensate, il muhtar, cioè il cosiddetto sindaco che fa anche da arbitro delle liti, così, è il falegname cristiano del paese. Ovviamente questo ambiente idilliaco di vita era poi segnato moltissimo dalla morte, della guerra, dall'occupazione, il dissidio, il grande dissidio israelo-palestinese, rispetto al quale voglio dire subito quello, perché se uno parla bene di Israele vuol dire che è contro i palestinesi, se uno tifa per i diritti dei palestinesi allora vuol dire che è nemico di Israele. Noi di Eduradio diciamo che bisogna applicare il diritto, c'è il diritto internazionale, ci sono delle risoluzioni internazionali, Israele ha il diritto al suo Stato, i palestinesi hanno diritto al loro Stato, si applichi il diritto, come abbiamo sempre detto in ogni cosa, ma questo diritto è calpestato, era calpestato da tanta violenza, io ne ho visto i rastrellamenti di notte, ho visto la morte nel nostro villaggio, ho visto le azioni dei coloni contro i palestinesi, ho visto i soldati israeliani uccisi dal comando palestinese. Per me, per uno come me che non aveva mai visto la guerra in prima persona, è stato veramente uno shock certe cose viste ad Ayn Arik. Sì, Ignazio, queste immagini sono molto forti, ma mi viene di chiederti qualche cosa di positivo, qualche immagine bella, aperta, ce la puoi raccontare? Beh, sì, ci sono tante, anche nel rapporto tra ebrei e palestinesi, per esempio le donne in nero, il movimento, noi abbiamo avuto tanti amici nelle organizzazioni pacifiste ebraiche e palestinesi, questo. Quindi ci sono tanti ponti che sono fatti dalle persone di buona volontà. Però voglio dire un episodio che mi è rimasto nel cuore, come se lo vedessi adesso negli occhi. Eravamo in piena intifada, l'intifada dell'Aqsa, cosiddetta dell'Aqsa, ottobre 2000 iniziata, e che è stata un'intifada durissima, ci sono stati attentati, suicidi, abbiamo visto di tutti i colori. E eravamo in un momento in cui il villaggio era completamente isolato, erano state tagliate anche le linee della luce, l'acqua, tutto quanto. Una mattina, ed eravamo a marzo, è il tempo del vento, in Palestina è il momento del vento, un po' marzo pazzerello anche da noi. Ci alziamo e ci sono decine e decine di aquiloni che si sono messi in aria, dai tetti della casa, dai cortili, dai giardini. Ma chi è che l'ha fatto questa cosa? I bambini. Abbiamo fatto un'indagine e abbiamo scoperto che nessuno ha detto niente ai bambini. I bambini, anche per reagire all'angoscia, hanno cominciato a fare gli aquiloni con tutti i sacchetti di plastica. Il muhtar, il sindaco del villaggio, che è anche il falegname, è venuto a trovarci e dice: guardate, una settimana niente lavoro, non c'è niente da fare, l'unica cosa costruisco soltanto aquiloni. Ho detto: benedetto il sindaco, ecco, che fa gli aquiloni. Grazie Ignazio, con questa bellissima immagine degli aquiloni che lanciamo anche qui via TV, via radio, se volete potete vederla. E vi lascio con un brano a metà mattina, sempre il nostro Frank Sinatra, My Way, la mia via, la mia strada, un brano del 1969 che ha vinto il disco d'oro, famosissimo, è arrivato in Italia in quinta posizione nella Official Singles Chart. Ascoltatelo. So I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo sempre con la nostra esperta formatrice di tante cose, tra cui anche il dialogo interreligioso e la spiritualità, Rosanna Sirignano. Bentornata. Grazie. Allora, Rosanna, con te abbiamo fatto tutta la carrellata dei pilastri, dei cinque pilastri fondamentali, e oggi abbiamo l'ultimo, il quinto, che riguarda proprio il pellegrinaggio alla Mecca. E volevo chiederti un pochino di raccontarci il significato di questo pilastro fondamentale e anche se c'è un tempo particolare per farlo. Sì, questo è il quinto pilastro dell'Islam, che appunto, come dicevamo, i pilastri sono in ordine proprio perché sono in ordine progressivo e rispecchiano un po' il cammino dell'essere umano verso Dio. E dunque il pellegrinaggio, in arabo Hajj, rappresenta proprio la sintesi dei cinque pilastri dell'Islam, perché ha numerose parti, è scomposto in numerose fasi, ognuna delle quali simboleggia l'incontro dell'essere umano con Dio, che secondo una visione islamica avverrà pienamente soltanto dopo la morte. C'è proprio un mese del calendario islamico che appunto possiamo tradurre in italiano il nome di questo mese come il mese del pellegrinaggio, e proprio in alcuni dei giorni di questo mese si compie questo rituale. È un pellegrinaggio per quanti se lo possono permettere, leggevo. Cosa significa? Quindi è un pilastro fondamentale ma non obbligatorio, non vincolante? I pilastri, diciamo, in quanto tali sono comunque tutti e cinque obbligatori, ma noi dovremmo capire che cosa vuol dire questa parola in un contesto islamico. Quindi sì, è obbligatorio, ma l'obbligo non è individuale, ma bensì è necessario che solo una parte della comunità adempia questo rituale affinché simbolicamente sia compiuto da tutti i musulmani. Naturalmente solo le persone che hanno la salute prima di tutto, perché è un viaggio molto impegnativo, ricordiamo che è un viaggio verso i luoghi sacri dell'Islam, Mecca, con una visita a Medina, che si trovano in Arabia Saudita. È un viaggio che comporta una serie di rituali abbastanza, ecco, pesanti proprio dal punto di vista fisico, sono impegnativi, e anche un dispendio, ecco, di denaro e in generale, ecco, di energie. Quindi ecco perché solo chi se lo può permettere compie questo rituale. Perché naturalmente, come dicevi, quando si indica la Mecca si indica un posto in particolare. Sì, il fulcro, il momento più importante del pellegrinaggio è quando i pellegrini giungono al monte di Arafa, e infatti proprio in questa giornata anche gli altri musulmani e le altre musulmane che a distanza partecipano a questo rituale generalmente digiunano per solidarietà. Un altro punto focale del pellegrinaggio è la Kaaba, questa struttura cubica in cui è incastonata la pietra nera, che è sinteticamente un luogo di culto del monoteismo da molto molto prima dell'Islam, risale addirittura ad Abramo. Sì, in Arabia Saudita, infatti, c'è questa immagine, magari riusciamo anche a trasmetterla su Liberi Dentro mentre parli. È il momento di lanciare un brano musicale, lanciamo? Back to the Sky, cioè Ritorno al Cielo, e dopo dirò perché, di Orafur Arnalds. Thank you. E rieccoci sulle note di Back to the Sky. Ora ci spieghi come mai hai scelto questo brano. Ho scelto questo brano perché un po' questa espressione rende quello che significa Hajj, ossia pellegrinaggio. Mentre la parola pellegrinaggio, ecco, in italiano riguarda più il viaggio, no? Noi pensiamo all'aspetto, ecco, del viaggio, pensiamo all'aspetto del viaggio verso un luogo sacro. La parola araba in realtà invece vuol dire avere uno scopo, cioè andare verso, ma con lo scopo di. E il pellegrinaggio in qualche modo simboleggia il ritorno dell'essere umano a Dio, che in lingua italiana, quando noi parliamo del cielo, parliamo della dimora simbolica, ecco, di Dio, quindi ha un po' di risonanza. E quindi non è un viaggio, ma è un vero e è una vera e propria preparazione a quella che sarà la vita dopo la morte. Ed ecco perché viene per ultimo, perché sintetizza un po' quelli che sono le altre basi del culto islamico. Ritornando un po' alla domanda che ti facevo prima, il fatto che è fondamentale come pilastro, ma non vincolante per chi ha problemi di salute, per chi è in uno stato economico che non può permetterselo, eccetera, eccetera. Ti chiedevo se ci sono delle alternative, allora, per chi non può permetterselo, al pellegrinaggio vero e proprio. Questo non è un rituale, ecco, sostituibile, perché anche se gli altri viaggi che si possono compiere verso altrettanti luoghi importanti per la storia dell'Islam, come può essere la città di Gerusalemme o la città di Damasco, queste sono da considerare dei viaggi, delle visite, ma il pellegrinaggio in quanto tale, ecco, non come la zakat, per esempio, che quindi non prevede una compensazione, come invece abbiamo detto nel caso del digiuno, perché la differenza è che il digiuno è un obbligo individuale, invece il pellegrinaggio, come la zakat, sono obblighi collettivi. Quindi c'è anche una sorta di gratitudine da parte di noi musulmani verso coloro che compiono il pellegrinaggio e compiono la zakat, perché in qualche modo compensano anche e adempiono anche all'obbligo dei musulmani che non possono permetterselo. Questo, ecco, è anche molto bello, perché si crea questa anche consapevolezza di essere parte di un tutto. E nei giorni del pellegrinaggio si verificano dei riti, vero? Sì, sono molto dettagliati e ecco, difficile da sintetizzarli, perché c'è proprio, ecco, un programma dettagliato per ogni giorno. E quello, diciamo, che è bello da raccontare nella contemporaneità, che esistono delle vere e proprie agenzie che sostengono i musulmani e le musulmane nel dover compiere il pellegrinaggio, perché anche tenere a mente tutte le fasi, soprattutto quando si arriva in quel periodo in cui, almeno prima della pandemia, arrivavano, ecco, migliaia e migliaia di persone, i musulmani si potrebbero sentire disorientati. Una cosa però importante è essere interiormente pronti e preparati a questo rituale. Grazie Rosanna. Ora un brano lo lancio io, ritornando a quello che dicevi prima, parlando del viaggio, e io lancerei proprio Il viaggio di Daniele Silvestri. E noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao. Ciao, grazie. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore questa volta, se per caso fosse amore me lo voglio meritare. Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno che era di passaggio. Strano, ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, che fossi come sei, perché fossi. così. Ci voleva sì, ma ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me. Perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano, da un aeroplano. Ci sono isole che andrebbero evitate, soprattutto quando è estate. Pochi passi sul pontile, è già finire intrappolato. Ben ritrovati, avete appena ascoltato la nostra Rosanna Sirignano, esperta, formatrice per la spiritualità islamica, e noi ci ridiamo appuntamento fra poco, sempre su Lepida, con il laboratorio di altro diritto, la rubrica di altro diritto, oggi parliamo di, e alle 17 sempre su Teletricolore, la stessa rubrica, altro diritto. E noi ci rivediamo domani, sempre qui a Liberi Dentro. Ringrazio tutti i nostri ospiti in puntata, in particolare Ignazio De Francesco, Antonella Cortese, il nostro tecnico per il montaggio di queste puntate, senza il quale non saremo qui, Pasquale Pitaniello. Grazie di cuore e a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.